visto che è tornato il bel tempo e che oggi c'è di nuovo il sole, parliamo di ferie, anche se forse non proprio nel modo in cui vorremmo. Perché è arrivata di recente ai dirigenti scolastici una circolare che fa chiarezza, si fa per dire, sulla questione del pagamento delle ferie al personale fino nominato, ovviamente a tempo determinato, fino al personale docente nominato fino al termine delle attività didattiche. Questo personale per contratto non era obbligato a fruire le ferie, nominato fino al 30 giugno, ma a parte i 6 giorni canonici che tutti e tutte gli insegnanti possono chiedere durante l'anno scolastico, appunto le ferie venivano fruite nei mesi di luglio e agosto. Ovviamente siccome soprattutto nelle scuole di secondaria e di secondo grado questo significa in alcuni casi dal 10 luglio, in altri dal 20, certe volte proprio ci arrivavi pelo pelo a fare i 32 giorni più i 4 di festività. Chi ovviamente terminava il suo rapporto di lavoro il 30 giugno non poteva fruire delle ferie in questo periodo e quindi, siccome non gli si poteva imporre di usufruirle in altri periodi, queste ferie venivano pagate tramite un lavoro delle segreterie che andava appunto a conteggiare il servizio, a rapportarlo agli anni di servizio, perché ricordiamo che dal quarto anno di servizio, anche se a tempo determinato, le ferie sono calcolate 2,6 periodico al mese, mentre per chi ha meno di, cioè fino a 3 anni, 2,5. Venivano poi tolti gli eventuali giorni fruiti durante l'anno, poi queste ferie venivano pagate con molta comodità ovviamente da parte della ragioneria insieme a eventuale partecipazione agli esami di Stato, oltre ovviamente alla diaria che viene comunque data a tutti, anche a chi è di ruolo, diciamo. E questo certamente per chi tutti gli anni finisce il suo rapporto di lavoro il 30 giugno, da a volte da 15 anche più anni, insomma era una boccata d'ossigeno che si aggiungeva eventualmente alla disoccupazione. Beh, nella legge di stabilità per l'anno 2013, quindi parliamo mi sembra del governo Monti, viene introdotta una norma per cui le ferie non sono più monetizzabili. Non lo sono assolutamente per i docenti, tranne credo sia rimasto il caso per esempio di prematura morte, e non lo sono comunque invece nel caso di cui ho parlato. Questo in contrasto col contratto che invece prevedeva appunto quello che si è fatto fino allo scorso anno. Questa cosa è rimasta abbastanza in sospeso per tutto l'anno, tant'è vero che fino alla fine di luglio, cioè per tutto agosto, ai primi di settembre, non si sapeva, non c'era nessuna indicazione pratica su come intervenire, perché in realtà in genere ancora le segreterie scolastiche lavorano sulla base poi di esplicazioni, di circolari esplicative di quanto deciso, e qualche segreteria ha comunque a quel punto mandato il decreto per l'attribuzione del pagamento delle ferie così come si era fatto fino a quel momento. E il 6 settembre arriva invece una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle ragionerie territoriali che dice, elenca, cioè una circolare veramente non semplicissima da leggere, comunque poi stabilisce che appunto le ferie non sono monetizzabili ai docenti con nomina sino al termine delle attività didattiche. Per le altre casistiche, per i docenti a tempo indeterminato e quelli annuali, quindi annuali dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ovviamente no, ma non ce ne sarebbe motivo, tranne forse casi particolari. E quindi la norma, poi c'è una bella tabella che spiega, ma insomma mica tanto, perché poi fa una differenza dal 7 luglio 2012 rispetto a invece dal 1 gennaio 2013, questo non è molto chiaro. E le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto. E che succede? Che allora praticamente questa circolare però non è che è arrivata alle scuole, quindi sì, era su intranet, si poteva consultare, ma ripeto, noi aspettiamo di essere, come si dice, i destinatari poi nelle scuole delle normative. finché il 14 settembre, mi pare, arriva un'altra circolare, però stranamente a tutta una serie di indirizzi, insomma a tutte le scuole in teoria, ma alcuni sono saltate, della provincia di Roma, da parte della ragioneria, che dice così: corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente educativo e data nell'anno scolastico 2012-2013. Si trasmette l'allegato, la nota, quella di cui ho parlato prima, che è del 4 settembre, prima ho detto il 6 ma in realtà era la data in cui è stata scaricata, e si trasmette in allegato la nota eccetera, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quindi il MEF, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione della normativa vigente in materia di pagamento di ferie non fruite. Nel contempo si invitano codeste istituzioni scolastiche a voler rimettere i provvedimenti eventualmente già adottati e trasmessi alla scrivente ragioneria. Quindi questo fa capire che questo comportamento da parte delle scuole è anche responsabile per certi versi, no? Perché nessuno si diverte a fare il lavoro due volte, però insomma poi è un lavoro che in genere chi ha un po' così di coscienza cerca di fare in tempi rapidi, in modo che insomma queste persone abbiano questa cifra, e non è che dà indicazioni, riallega la circolare di cui vi ho parlato, che sostanzialmente dice quanto illustrato. La questione è che diciamo la prima cosa è che sicuramente poi si tratta, questo a margine è secondario, comunque di un grosso lavoro, perché bisogna andare a escludere tutte le vacanze di Natale, tutte le vacanze di Pasqua, eventuali giorni di sospensione della didattica per elezioni, oppure quelle scuole che fanno la cosiddetta settimana bianca, si chiama normalmente così, ma in realtà insomma è una settimana di sospensione così in genere a febbraio. I concorsi no, quelli che ci sono stati quest'anno, perché i professori erano precettati, qui si potrebbe aprire una parentesi, perché insomma tu mi hai pagato per insegnare, per stare a controllare i colleghi che fanno il concorso, ma insomma va bene. E quindi questo è un aspetto. E io non ho ancora messo mano, ma grosso modo, togliendo le domeniche, insomma praticamente rimane ben poco da pagare come ferie. E poi c'è una questione che è stata sollevata da molti sindacati, bontà loro, che è quella della costituzionalità di un provvedimento del genere, perché i colleghi di ruolo insegnanti allora pure loro, cioè, prenderebbero più ferie di quelle che prevede il contratto, no? Perché se per a me, che sono fino al 30 giugno, mi consideri ferie Natale e Pasqua e tutti gli altri giorni di interruzione, perché non li consideri ferie anche ai docenti di ruolo? Cioè non ha senso, mi sembra una considerazione che non è per niente campata per aria, non perché si voglia abbassare al peggio la questione, ma perché si vuole soltanto far vedere che qui proprio si fa strame di qualsiasi logica di diritto. Fra l'altro c'è un contratto, l'ultimo che ci abbiamo, bontà loro, che dice proprio che le ferie devono essere pagate e così via. E in questa disposizione, come già nella legge di stabilità, si dice chiaramente che le norme successive, quindi in questa contenute, cioè le norme precedenti che contrastano con questa, sono nulle praticamente. Allora ci chiedevamo il contratto non ce lo fate più, e questo l'abbiamo capito, ma che l'abbiamo fatto a fare. Il contratto è una cosa che per definizione è fra due parti, se poi interviene una legge e decide per una parte sola a danno, non credo a favore, dell'altra parte, allora di che stiamo parlando? Come minimo dovremmo ricontrattare il tutto se una legge interviene dopo. Però vabbè, è evidente insomma che qui si è fatto veramente carta straccia di qualunque diritto di chi lavora nella scuola, in particolare di chi ci lavora con contratti precari, insomma questo mi sembra proprio evidente. Così, per rendere concreto e umano tutto questo discorso, mi ricordo un collega precario all'inizio dell'anno scolastico, quando ci si racconta com'è andata l'estate, lui dice: ma sono stato tutta l'estate a studiare per il concorso e poi mi trovo ancora a essere qui con un posto da precario come l'anno scorso, pur avendo superato tutte le prove. E comunque, essendo che l'INPS è in ritardo a pagare la disoccupazione e che le ferie non me le pagano più, non mi sarei potuto muovere da Roma in qualunque modo, perché evidentemente non avrebbe saputo insomma con quali soldi farlo. Tra l'altro, quando si preparava il tabulato delle ferie negli anni scorsi, nella maniera che vi ho detto, cioè calcolando solo quelle che il docente aveva fruito su richiesta sua, e c'era una casella che diceva non date per motivi di servizio, e molte circolari successivamente dicevano che quello praticamente non andava compilato, non era previsto che si chiedessero ferie non concesse per motivi di servizio. Poi ci sono delle perle, qui concludiamo, a parte che non si riesce a capire, siccome parla di due, come ho detto, di due tipi di scadenza, una dal 7 luglio 2012 e l'altra dal 1 gennaio 2013, a un certo punto dice, e non ve lo ripeto, insomma, il fatto che le ferie non sono monetizzabili, tale deroga non contrasta con alcuna norma contrattuale. Io potrei non aver capito, però, poiché, come detto, alla data di entrata in vigore della stessa, questa è la legge 228 del 2012, credo sia quella appunto di stabilità, le norme contrattuali che consentivano la monetizzazione delle ferie erano state già disapplicate con l'entrata in vigore del decreto legge 95 del 2012. Cioè, che vuol dire? Che siccome c'è una legge precedente, una norma precedente che se ne frega del contratto, allora quelle che vengono dopo si appoggiano a quella e quindi il contratto non conta più niente. E poi c'era un'altra cosa molto carina, ma me la sono persa, quindi ecco, dice, si rimarca eccetera eccetera, nulla rileva dunque ai fini della monetizzazione, messo fra virgolette perché è brutto, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ha. Quindi lo sanno che è mera e astratta. Che è mera. Sì, mera e astratta. Mera e soprattutto astratta. Comunque, insomma, ci sono già state sollecitazioni comunque da parte anche di alcuni sindacati a chi si trova in queste condizioni di fare magari formale richiesta di che gli vengano retribuite le ferie nella misura in cui appunto era fatto fino all'anno scorso, ma insomma, come al solito, le armate nostre vanno sparse e le loro invece vanno belle dritte, piazzate e compatte. Mettiamo un brano musicale, se volete intervenire su questo argomento, 06 49 17 50. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. E ci fermiamo un attimo, perché forse vale la pena di rendere tutti partecipi delle riflessioni che stavamo facendo tra noi invece in questo momento. Cioè, si pensava spesso, abbiamo notato che certe battaglie, anche la sensibilità a certe tematiche come questa, sembra essere un appannaggio esclusivo delle persone che sono strettamente coinvolte, in questo caso degli insegnanti precari che si vedono costretti a fruire delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Ma in realtà, e diciamo il passato dovrebbe un pochino, come dire, ammaestrarci su questo, è possibile, dal mio punto di vista è verosimile, anche tenendo conto dell'eccezione di incostituzionalità di cui parlava prima la compagna, che prima o poi o ben presto tutti gli insegnanti siano costretti a fruire delle ferie, quelli di ruolo e quelli non di ruolo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, per farci capire, dai colleghi di ruolo, a Natale, a Pasqua e così via, e che conseguentemente si liberi per altra didattica il mese di luglio, nel corso del quale potremmo essere tutti costretti, visto l'impoverimento progressivo del FIS e vista l'attenzione con cui sono guardati anche dalla normativa i corsi di recupero e di potenziamento, ma soprattutto i corsi di recupero, per essere costretti a lavorare con il normale ritmo, con la didattica normale nel mese di luglio, per fare appunto i corsi di recupero che verrebbero a essere sottratti dal salario aggiuntivo anche degli insegnanti di ruolo. Sì, e io credo che sia proprio questa insensibilità verso quello che succede a chi lavora al tuo fianco che abbia contribuito, abbia spianato la strada a chi ha voluto peggiorare pesantemente le condizioni di lavoro di chi lavora nella scuola, forse anche in altri settori, ma nella scuola, per quello che io vedo quotidianamente, credo che sia sicuro. Insomma, gli insegnanti di ruolo, soprattutto chi è di ruolo da molti anni, chi ha fatto meno precariato perché all'epoca non c'era, spesso nemmeno si occupa di sapere, non capiscono, non sanno e non capiscono quello che è, chiamiamolo così, il travaglio di chi è precario e che cos'è il precariato. Però questo non capire non scusa, cioè nel senso, tu non puoi lavorare accanto a un lavoratore o una lavoratrice che guadagna mediamente 3, 4, 500 euro al mese meno di te, perché magari è più indietro rispetto all'anzianità, che viene licenziato ogni anno a fine giugno, viene riassunto se va bene a settembre, adesso gli levano pure le ferie, però tu non te ne accorgi perché sai, sei di ruolo da tanti anni e magari dici pure ma la gavetta l'abbiamo fatta tutti, e no. La gavetta non l'abbiamo fatta tutti e tutte, dipende quando sei entrato, perché le condizioni del lavoro del 2013 non sono quelle di 10, di 20, di 30 anni fa. E poi scusami, ma non è che se c'è qualcuno che lavora male, che lavora in una condizione da fame, che lavora in una condizione inumana, allora siccome lui ha lavorato in quel modo tutti lo devono fare anche eventualmente, insomma non è questa l'ottica. E però diciamo che questo atteggiamento, almeno dal mio punto di vista, si inserisce in un atteggiamento più generale degli insegnanti e del corpo docente, che è l'atteggiamento voler guardare al proprio orticello, al proprio lavoro, a quanto sono bravo io, il discorso che si è fatto tante volte, e pensare tanto che tanto l'altro sta male perché in qualche modo se lo merita, perché non è stato bravo, perché non ha fatto il concorso giusto e così via, insomma. Ancora qualche nota di musica, se volete chiamarci è lo 06 49 17 50. Para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, all'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. E torniamo in diretta per darvi una notizia che era ieri sui giornali, pare sia notizia dell'altro ieri, una notizia inquietante anche se sinceramente non inattesa. Si parla della nota di aggiornamento del DEF, cioè del documento di economia e finanza del governo, in cui il governo, tra le altre cose, indica come provvedimento per la legge di stabilità un nuovo sistema di aumento retributivo per i docenti, cioè le intenzioni, cioè si dice che si vuole un sistema di valutazione delle prestazioni professionali collegato a una progressione di carriera svincolata dalla mera anzianità di servizio. Ed eccolo qua quello che ci temevamo che ci cascasse sulla testa da anni, cioè oggi nella scuola, così come in tutta la pubblica amministrazione, l'aumento di stipendio, quando c'è, in quelle somme ridicole in cui è concesso, ora è bloccato da 5 anni, comunque segue la progressione dell'anzianità. La progressione di anzianità seguiva, dice giustamente, la progressione fino di anzianità al blocco appunto degli scatti di anzianità. Adesso invece, per assicurare, questo è lo scopo di questa norma, dice il governo Letta, una maggiore qualità alle istituzioni scolastiche, cosa si vuol fare? Si vuole legare l'aumento di stipendio non più all'anzianità ma al merito. Ecco il deus ex machina del merito che risolverà ogni problema. Prima di parlare di merito, perché forse merita appunto una trattazione un po' approfondita questa idea di merito, vorrei in qualche modo far notare che in questa maniera, mentre gli scatti di anzianità prima, quando c'erano, andavano a tutti a seconda appunto dell'anzianità, in questa maniera è evidente che gli scatti di anzianità verrebbero tolti a tutti quelli che non li hanno ancora maturati, evidentemente, mentre invece la progressione di carriera verrebbe data a pochi meritevoli, e questo è prima di tutto un modo per ridurre lo stipendio degli insegnanti, lo stipendio che gli insegnanti si aspettavano di avere su base contrattuale. Colleghi e colleghe che ci ascoltate, non è il momento di far vedere quanto siete bravi e brave, perché il fine del governo non è questo, è di non aumentarci mai più gli stipendi, lasciando qualche briciola qua e là a qualche funzione strumentale, a chi è più realista del re, non si sa quali sono i criteri, non si sa, perché anche i sindacati, bontà loro, dicono: ma è questo merito, chi lo misura? Sì, il fine è questo, e il fine è anche e comunque quello di dividere il corpo docente già diviso in questa lotta per l'accaparramento del riconoscimento del merito vero, reale o presunto, insomma, no? Perché immaginiamoci all'interno dei collegi docenti, nel momento in cui gli scatti di anzianità fossero legati al merito, quali faide si scatenerebbero per approdare appunto a quelle funzioni che venissero riconosciute come meritevoli. Infatti, rispetto a questo, c'è da segnalare che le associazioni dei dirigenti scolastici più o meno si sono schierate subito con questa norma, perché ovviamente aumenta il loro potere di controllo, perché un altro aspetto è anche questo, perché chi stabilirà il merito, che fai, lo stabilisci in base agli invalsi, insomma, poi questo è un altro capitolo. E quindi evidentemente sarà nelle mani dei presidi. Ci sta chi fa proposte, insomma, mediazioni del tipo un pezzettino per anzianità e poi il resto per il merito. Poi appunto va anche ragionato sul fatto che il fondo d'istituto, ormai, cioè quei soldi stanziati per le attività appunto extra, chiamiamole così, di vario genere, è stato l'anno scorso quasi dimezzato, e già si parla, insomma, non è stato stanziato. Quest'anno le attività sono cominciate, ovviamente, non solo da parte degli insegnanti, ma anche del personale amministrativo e collaboratori scolastici e ausiliario, insomma, tecnico ausiliario, per cui a questo punto sono attività che poi, insomma, sono non dico che facciano vivere la scuola, ma insomma sono ormai, diciamo, istituzionalizzate, sono attività che ci sono da molti anni, fanno parte ormai organica, insomma, dell'attività della scuola, che evidentemente non si limita alle lezioni in classe, per cui è un altro modo per togliere da una parte e fare finta di dare dall'altra. Già il fondo d'istituto è stato, questo insomma è stato denunciato da chi c'aveva un po' di cervello quando fu istituito, mi pare nel 95, con l'autonomia. Già era un momento di divisione, perché poi alla fine, al di là delle contrattazioni con RSU eccetera, poi alla fine comunque era uno strumento sicuramente anche qui di controllo e di divisione, per cui diciamo non si torna indietro su questo, ma anzi si aggrava la funzione già di questo tipo di prebende, chiamiamole così. E a questo proposito, del discorso che faceva all'inizio la compagna, e cioè sostanzialmente a chi fa comodo questa innovazione, chiamiamola così, forse è opportuno dare un attimo un'occhiata anche a livello di media, da chi viene presentata questa norma e come viene presentata. In particolare, io ho fatto anche ieri una ricerca su questo, la notizia era sul Messaggero e poi ripresa dal Mattino, che riprendeva il testo del Messaggero, e sul Messaggero con un articolo scandaloso dal titolo "Scuola, scatti di carriera legati al merito, arriva il via libera dei professori". All'interno dell'articolo, a sostegno, a documentare il via libera dei professori, era raccolta l'opinione del dirigente dell'ANPI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Presidi Italiani, che diceva che appunto sono 15 anni che i presidi chiedono questo cambiamento, a ulteriore riprova del fatto che sarebbe lo strumento per i presidi consolidare la loro posizione, diciamo manageriale, all'interno delle scuole. E poi veniva raccolta l'opinione del direttore generale del MOIGE, cioè l'associazione dei genitori, forse più reazionaria, bigotta, eccetera eccetera eccetera, per non dire altre parole, ma insomma è sufficiente questo. Minima, cioè sto merito sarà quantificato a livello di soldi, cioè non è qualcosa che prendono tutti, come erano in fondo gli scatti di anzianità, no? Per cui ci sarà una grossa fetta che rimane esclusa, anche se è brava. Il discorso, vi ricordate, del 25% dei fondi e del 50% dei meno bravi e del 25% degli esclusi, insomma è un po', torna pure questo discorso. Sì, ma poi non lo so, per la mia testa dovrebbe, in un mondo non dico ideale ma in un mondo non completamente rigirato come questo, dovrebbe funzionare che gli scatti d'anzianità toccano a tutti, perché tutti e tutte quelle che insegnano sono in grado di farlo, se no non dovrebbero essere là a insegnare. Dopodiché, se si vuole istituire un meccanismo premiale, dovrebbe essere in più, non a sottrazione. Però nei rapporti di lavoro questo l'abbiamo visto succedere anche in altre categorie, non so, per esempio io ho presente per la categoria del commercio, con l'istituzione dei budget, no, dei negozi a cui si deve arrivare, molto spesso chi lavora nei negozi, nelle catene, deve raggiungere un budget nel negozio, e però se lo raggiunge non è che ha uno stipendio in più, ha lo stipendio pieno, se no si va a sottrazione. E quindi sostanzialmente il meccanismo poi è quello, alla fine, anche se viene mascherato da merito Sì, qui il meccanismo è anche peggiore, cioè tu hai un diritto, che è il diritto agli scatti di anzianità, io te lo tolgo e dopodiché, per reintrodurlo per alcuni, pretendo qualcosa in più da te. Cioè per carità, le condizioni di tutti i lavoratori sono difficili, ma in questo caso mi sembra che sia una situazione allucinante, perché prevede la sottrazione di un diritto previsto dal contratto che io ho firmato. Ecco, appunto, anche questo è previsto dal contratto e viene tolto da un'altra legge, cioè dalla legge di stabilità. Fra l'altro è anche evidente che se viene messo nella legge di stabilità è perché così non se ne accorge nessuno, perché la legge di stabilità è un mare magnum in cui non si va certo a cercare come si retribuisce un insegnante. Poi salvi pure i sindacati in questo modo, i firmatari del contratto, che se tu la metti in contrattazione alla fine magari più o meno lo firmano e si espongono anche a questo. Invece qui fanno le dichiarazioni di circostanza e di prammatica, ma poi non chiamano alla lotta, non propongono nulla, per cui fanno questi incontri di cui ogni tanto c'è reso conto sui loro portali, si indignano, come dice la canzone, si stracciano le vesti con gran dignità, insomma, poi le cose rimangono come sono. 06 49 17 50 è il numero per intervenire in trasmissione. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis Questa è Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola ogni martedì dalle 16 alle 17 in onda sugli 87.9. Arriviamo adesso, come dire, al clou di questa puntata, perché vorremmo, come avevamo annunciato martedì scorso, parlare del decreto scuola, così è stato chiamato dai media e forse anche dal governo stesso, che lo ha varato simbolicamente il 9 settembre, cioè il giorno dove in cui nella maggior parte delle scuole italiane si è riaperto i battenti dopo la pausa estiva. Il governo si è riunito in quel giorno e ha varato questo bel decreto che ha molto strombazzato. Letta l'ha detto 50 volte anche ieri, che però loro si sono occupati della scuola, non è che non hanno fatto niente, hanno fatto il decreto scuola. Sì, nel discorso di Letta, che io ho trovato veramente esilarante, e in questo passaggio in modo particolare, il decreto scuola e i provvedimenti per la cultura sembravano veramente il fiore all'occhiello in grado di rivoluzionare in qualche modo il trend imposto al mondo culturale italiano dalle amministrazioni precedenti. Addirittura si è lamentato del fatto che nessuno lo sapesse in qualche modo, e obiettivamente, andando a dare un'occhiata, noi abbiamo cercato di leggerlo con attenzione nei limiti del possibile, perché in alcuni passi è davvero ostico per i riferimenti e i rimandi continui. Andando a leggere con attenzione sembra veramente la montagna che partorisce il topolino sotto diversi profili, e volendo fare un discorso di carattere generale, di valutazione generale, è un decreto prima di tutto mostruosamente frammentario nei provvedimenti, che evidentemente prende atto di una serie di problemi gravi. Poi andremo a valutare anche singoli articoli per farvi capire la qualità dei problemi che vengono presi in esame, e diciamo l'esiguità in qualche modo delle risorse che vengono profuse per ciascuno di questi aspetti. Si va appunto dalla formazione degli insegnanti all'edilizia scolastica, al capitolo borse di studio, al capitolo laboratori, con anche alcuni provvedimenti innovativi, concorsi e così via dicendo. La cosa che francamente colpisce, o almeno che ha colpito me da un punto di vista generale, è appunto l'esiguità delle risorse che vengono stanziate globalmente e per ogni singolo capitolo di spesa, e anche la ristrettezza dei tempi di applicazione dei provvedimenti, perché lo guardavamo prima, nella maggior parte dei casi sono provvedimenti che sono finanziati per questo anno scolastico 2013-2014 con risorse, dicevamo, minime, e dopodiché non si capisce questi provvedimenti, che in molti casi erano provvedimenti urgenti, che fine facciano, in qualche modo, che esito possano avere. Già sapevano che fine avrebbero fatto, per cui non si sono spinti molto, non hanno usato molto. Tra l'altro, tutti i decreti che, se cade il governo, non so le ultime notizie, ma mi sa che vanno tutti, cioè non verranno convertiti, quindi boh, tutto a sta fatica. Non lo so, però sinceramente a me non mi pare neanche che abbiano fatto tanta fatica, perché poi appunto alla fine si tratta di una serie di micro interventi frammentari e di breve durata, cioè non c'è uno sguardo d'insieme, non c'è un finanziamento cospicuo. Comunque andiamo un po' a vederlo. È il divieto di fumare dentro l'edificio scolastico. Quello di miglior visione, dici tu. No, che non è il divieto di fumare dentro l'edificio scolastico, ma dentro il perimetro scolastico. Quindi anche nel cortile, ovviamente. La novità è che i giardini, che ne so, i portici, i cortili, ovunque. E non è neanche di facilissima gestione come decreto, ma insomma magari ne possiamo parlare un'altra volta, non so, uno studente mi diceva, però dice, i docenti a ricreazione escono a fumare, e io sono maggiorenne, che differenza c'è legalmente tra me e il docente che esce a fumare? Obiettivamente nessuna. E comunque passando oltre, insomma, qui si stabiliscono ovviamente le sanzioni, eccetera eccetera. L'articolo 1, welfare dello studente. Uno legge questo titoletto e dice, hai visto, il governo Letta finalmente si occupa di questioni sociali. Si istituiscono per un solo anno 15 milioni, in cui si dice che nelle zone in cui ci sono particolari disagi, diciamo, collegati alla carenza di trasporti e di servizi mensa, si danno delle borse di studio ai ragazzi che abbiano un merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica, e poi abbiano basse condizioni economiche. Quindi anche per me, anche la mensa e l'autobus bisogna meritarsi, cioè non è che è un diritto. Sì, veramente, questo che è l'articolo 1,1, che, cioè, si dice, si può dire, si comincia veramente male. Torniamo, nostro malgrado, sul discorso del merito, ma in questo caso in un contesto veramente scandaloso. Cioè qua si dice che dove a livello comunale evidentemente ci siano dei problemi in fatti che sono prioritari, come per esempio i trasporti per la scuola e le mense scolastiche, le borse di studio erogate per supplire a questi deficit vengono erogati prioritariamente, mi sembra di capire, o comunque anche non prioritariamente, comunque in ragione del merito, cioè del rendimento scolastico. Cioè, se io mi devo svegliare la mattina alle 5 perché devo andare a scuola a piedi e sono assonnato e non faccio bene i compiti, non ho diritto alla borsa di studio per diciamo colmare questo, risolvere questo problema. È questo il discorso. Io passerei poi all'articolo 5, dove il titolo è potenziamento dell'offerta formativa, tanto per dire anche quanto va qua e là questo decreto. Insomma, si parla della ristituzione dell'insegnamento della geografia nei tecnici e nei professionali. La Gelmini, pace all'anima sua, l'aveva tolta perché evidentemente aveva stabilito che la geografia non era materia di particolare interesse. E d'altra parte la Carrozza ha dichiarato pochi giorni fa che col greco e col latino, con il greco, parlando greco, non si va da nessuna parte, e la Gelmini lo pensava anche rispetto alla geografia, evidentemente. Ma in Grecia in genere si parla greco, però insomma, a parte questo, il greco moderno. Sì, no, vabbè. E detto questo, viene restituita la geografia generale ed economica nei tecnici e nei professionali. Questo, come dire, ci dà un po' il là per ricordare però che questi istituti, cioè gli istituti superiori tecnici e professionali, sono stati veramente stragiati completamente dalla riforma Gelmini, che ha tagliato mediamente dalle 6 alle 10 ore settimanali nei tecnici e nei professionali, tagliando in maniera orizzontale, senza guardare in faccia a nessuno, le ore di scuola, non con un progetto, ma sulla base di quali erano le cattedre che al ministero conveniva tagliare. Quindi l'hanno completamente distrutte alcuni ordini di scuola. Oltre a questo, ricordo che non si fa menzione, forse non lo sanno i nostri governanti, del fatto che anche nei licei c'è un problema con la geografia, perché nei licei formalmente non è stata cancellata, ma di fatto lo è stata, perché adesso noi insegniamo una materia che si chiama storia trattino geografia, geostoria o geostoria, a seconda del libro che abbiamo, dell'istituto, eccetera. Però di fatto non si sa cos'è questa materia, e di fatto insegniamo, nella maggior parte dei casi si insegna storia e geografia non si insegna più. Questo evidentemente non ce ne siamo tanto accorti. Sì, evidentemente questa reintroduzione di un'ora di geografia, se capisco bene come ragionano queste persone, è un contentino all'Associazione dei Geografi, che ha da tempo, diciamo così, vibratamente protestato per la cancellazione progressiva della geografia dalle scuole. Quindi evidentemente è un atto che possiamo definire politico più che finalizzato in qualche modo a ripristinare o a restituire qualche cosa ai ragazzi dei tecnici e dei professionali che, come ricordavi tu, hanno avuto drammaticamente tagliato l'impegno di studio e di didattica delle materie letterarie. Poi con questo criterio nessuna materia serve, no? Ah no, certo. Perché con questo criterio, cioè togliere geografia, facciamo un inciso, cioè come faccio a capire quello che succede o che è successo se non lo so collocare anche nello spazio? No, ma infatti questo problema è un problema che, insegnando, per chi va in classe tutti i giorni, si avverte in maniera pesantissima, eppure sono 3 ore di geostoria nei licei, dove devo fare storia, geografia ed educazione civica, che è diciamo una materia tanto sbandierata ma forse più penalizzata della geografia. Sempre per il potenziamento formativo nei tecnici e nei professionali si investono 3 milioni per tutto il territorio dello Stato aggiornare i laboratori scientifico-tecnologici. Questi laboratori, appunto, si investe 2 briciole per migliorarli, ma queste 2 briciole dove si prendono? Si prendono dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. E quindi sostanzialmente non è che i laboratori non sono un in più in una scuola professionale o tecnica, dovrebbero essere gli strumenti di base, mentre si considerano come un lusso. E ci si butta così 3 milioni senza occuparsi di niente di più. Ma quello che io trovo più scandaloso, anche per il cancan mediatico che ne è stato fatto, è l'articolo 6 di questo decreto scuola. Non so se ricordate, insomma, ma è passato poco tempo da quando è uscito, era il 9 settembre, quindi sui giornali è andato il 10, un gran parlare del fatto che il governo si era finalmente occupato di ridurre il costo per le famiglie dei libri di testo. Un problema serio, perché un ragazzo, una ragazza che arriva in prima superiore spende mediamente 600 euro se vuole dotarsi di tutti i libri che vengono richiesti. Cosa ha fatto il governo? Quindi ha dato il permesso per legge agli studenti di comprare i libri usati. Ora, sinceramente, una maggior presa per il culo di questa io non credo che esista, sinceramente. È appena il caso di dire che tutti noi, da quando esiste la scuola, abbiamo comprato libri usati, rimediati da amici o in divertentissimi mercati dei libri usati dislocati per ogni dove. Tutti gli studenti comprano quasi esclusivamente libri usati, che il dare il permesso per legge di comprare libri usati possa poi essere anche un motivo di rivendicazione di un'azione politica sulla scuola, sinceramente io lo trovo proprio indecoroso. Ah, il permesso lo danno solo per un anno, per il 2013-2014, non è che lo danno in assoluto. Oltre a questo danno anche altri 3 euro, cioè 2 milioni e 700 milioni per l'acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie. E qui ci deve essere proprio qualcuno che produce tablet, amico di questi che stanno al governo e dirigendo, non so, perché in tutti i modi vogliono le scuole acquistino questi tablet. E quello che viene fatto notare a questo proposito da fonti anche, diciamo, di sindacali, che a questo riguardo si deve ricordare che nel corso degli ultimi 5 anni il Fondo Nazionale per i Libri di Testo è stato praticamente azzerato o comunque è stato prosciugato, e l'ultima riduzione l'ha operata proprio questo governo, dimezzando i trasferimenti alle regioni su questa voce di bilancio. Quindi voglio dire, a fronte di questo, dare poi il permesso per legge agli studenti di comprare libri usati, francamente è ridicolo. Per quanto riguarda poi un capitolo che è veramente serio, cioè quello della dispersione scolastica, cioè della prevenzione alla dispersione scolastica, cioè di fare in modo che tutti i ragazzi e le ragazze usufruiscano del diritto allo studio di cui dovrebbero godere, ne parla appunto l'articolo 7 del decreto scuola approvato il 9 settembre, e si parla di un programma di didattica integrativa che contempli, tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. Ora però quello che si sottolinea sempre è che non ci deve essere aggravio di spesa, perché ovviamente non si può sforare rispetto a, insomma, Saccomanni non, altrimenti non approva. Quindi non si capisce bene questa cosa come può andare in porto, e oltretutto si definiscono con questo stesso decreto le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche che possono avvalersi di associazioni e fondazioni privati senza scopo di lucro. Quindi, insomma, è un'altra forma strisciante di privatizzazione della scuola, cioè a insegnare ai ragazzi a rischio di dispersione chiamiamo persone da fuori la scuola, che agiscono senza fini di lucro, e chi chiamiamo? I parroco, cioè i preti, gli unici sono quelli. E, detto questo, un altro argomento molto serio della scuola è quello dell'edilizia scolastica e delle condizioni in cui versa l'edilizia scolastica. Si prevedono interventi straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico, leggo dalla legge, lo dicono loro, efficientamento, per il 2013-2015. In tutto vengono stabiliti 40 milioni annui, non in tutto, scusate, 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2015. Che vuol dire? 40 milioni per una durata pluriennale, perché sostanzialmente si autorizzano le regioni a contrarre mutui per realizzare questi interventi, e lo stanziamento è per la durata del mutuo sostanzialmente, quindi non è specificato, ma è in ragione della durata dei mutui che vengono contratti, credo di capire, dalle singole amministrazioni. A questo riguardo, nella vacuità del provvedimento, c'è chi ha fatto notare che lo stato di decadenza delle scuole, degli edifici scolastici, per chi li frequenti va molto al di là di quello che è immaginabile per una persona che ne è all'esterno. Ho dato un'occhiata, come suggerito anche da alcuni commenti alla legge, al rapporto di cittadinanza attiva sullo stato dell'edilizia scolastica italiana, e le cifre che se ne ricavano sono veramente inquietanti a livello nazionale. Cioè, tanto per dire, il 20% delle scuole presenta distacchi di intonaco, il 25% degli edifici scolastici presenta danni derivanti da muffe, infiltrazioni d'acqua nelle aule, il 28% delle scuole presenta danni alle finestre che non si chiudono, crepe, cavi volanti nell'8% delle scuole. Quindi la situazione della scuola, per chi ci vive, è veramente drammatica, senza contare quelle che sono le esigenze, in molti casi assolutamente non valutate, dei ragazzi disabili e della rimozione delle barriere architettoniche. Sì, spesso gli ascensori non ci sono, se ci sono non funzionano, e voglio dire, un ascensore non è semplicemente un modo per staccarsi meno, ma è un modo per far accedere alle aule chi ha una deambulazione limitata, o per la vita o in un periodo di tempo limitato, insomma. Non so, propongo in diretta alle mie compagne di trasmissione di occuparci della parte relativa al personale di questo decreto la volta prossima, perché se no mettiamo c'è la questione troppo degli, la famosa questione degli inidonei, no, che ci ha agitato per tutto l'anno, cioè quei docenti e quelle docenti che avevano un decreto, insomma, a seguito di visita collegiale, di inidoneità all'insegnamento, ma che erano idonei ad altre funzioni. Questo personale era impiegato nelle scuole in vari modi, e l'anno scorso appunto arrivò a questa norma per cui dovevano essere destinati alle segreterie, al ruolo di assistenti tecnici o di collaboratori scolastici. Questo adesso sembrerebbe, è stato abrogato questo articolo, però quello che insomma non è, non ce la facciamo forse oggi, insomma l'accenniamo, però intanto il danno è stato fatto enorme l'anno scorso, perché questo ha comportato che centinaia di persone che lavoravano come ausiliari, come amministrativi soprattutto e tecnici, siccome dovevano arrivare questi benedetti inidonei a coprire i posti vacanti, hanno avuto tutti nomine fino all'avente diritto, nomine che sono state fatte dalle scuole e non dalle e non dagli uffici scolastici provinciali, quindi si è creata l'assurdità, che poi queste nomine sono durate ovviamente per tutto l'anno, all'assurdità che ne abbiamo anche parlato l'anno scorso, che personale con minori punti si trovava ad avere incarichi annuali e magari che aveva più punti perché in quella scuola non si era presentato quella necessità, si è trovata poi scavalcata, insomma, se una graduatoria c'ha un senso e che venga rispettata, insomma si è creata questa cosa. Quindi diciamo che rispetto a questo chi si è salvato fra virgolette, non si è salvato l'anno scorso, ma forse non si sa, potrà insomma riavere a disposizione questi posti fra personale soprattutto amministrativo. In realtà però la questione degli inidonei poi l'affronteremo appunto magari più approfonditamente, e qui insomma siccome coinvolge tante persone chiediamo proprio l'aiuto anche di chi ci ascolta, la situazione non è che cambia poi, perché comunque si dovrà essere sottoposti a visita, il personale che attualmente è inidoneo potrà, se riconosciuto insomma inidoneo, se è riconosciuto inidoneo all'insegnamento torna a insegnare, altrimenti e può su richiesta appunto andare a fare l'amministrativo, altrimenti rientra nella mobilità intercompartimentale regionale. Questo voi capite che per esempio contrasta assolutamente con la legge 104, di cui magari molti e molte di questi inidonei fruiscono a fronte di particolari patologie, che prevede il diritto a rimanere nella sede più vicina alla propria abitazione, ai propri luoghi di cura. Sì, questo è un aspetto. Un altro che volevo segnalare è che nella commissione che deve decidere l'inidoneità, e questa è veramente una cosa allucinante, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sto leggendo non so che articolo è perché non ce l'ho scritto, comunque riguarda appunto la parte del personale scolastico, quindi sono integrate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, questo è il mantra che percorre tutto il decreto, da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale. Che cavolo va a fare questo dentro una commissione medica? Fra l'altro qualcuno faceva notare pure che c'è una situazione di privacy, insomma quando ti mandano poi il decreto non è che c'è scritto perché e per come quella persona è riconosciuta o meno inidonea, insomma. Sì, sicuramente ci sono anche altre questioni che riguardano il personale della scuola, sempre in questo decreto le affrontiamo tutte la prossima volta, direi. Quello che vorrei dire a chiosare insomma il ragionamento è che quelli che abbiamo affrontato fin qui sono i punti che dovrebbero dare mostrare una sensibilità sociale di questo governo che mette mano della scuola per favorire il diritto allo studio di tutti e di tutte e uno studio di qualità, e come abbiamo visto sinceramente sembrano più prese in giro che veramente anche d'una miseria paradossale in alcuni casi. Sì, non è e che comunque sì. Sempre per un anno. Sì, sempre per un anno, però non tranne è i mutui. Sì, quelli non è che sembrano prese in giro, in alcuni casi sono proprio prese in giro, ne abbiamo citate alcune, ma insomma la vacuità proprio di visione sulla scuola di questo decreto si dimostra proprio nella frammentarietà e anche nella polivalenza, diciamo così, delle iniziative. Ci sono concorsi per collaborazioni per musei proposti e istituiti, ci sono attività senza oneri per lo Stato per la corretta alimentazione, cioè c'è veramente di tutto senza che ci sia una visione di quello che effettivamente è la scuola. Direi che con questo possiamo chiudere e rimandarvi a martedì prossimo, quando parleremo della seconda parte del decreto scuola. Manca circa metà degli articoli rispetto a quello di cui abbiamo parlato. Adesso lasciamo i microfoni, perché dopo una pausa estiva un po' prolungata riprende le trasmissioni il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche a questi microfoni tra pochi minuti per il 19° anno di seguito sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi invece, come ora di buco, torneremo in diretta martedì prossimo alle ore 16. We don't need no education. We don't need no thought control.